Letture di Radio 24. Nonostante fosse consapevole che per il suo cancro non esistessero terapie, Annalisa Russo non aveva mai perso la fiducia nei progressi della ricerca. E dalle pagine del suo blog, che la stampa pubblicava regolarmente nell'edizione online, trasmetteva tutto il suo coraggio e la sua speranza. Ora che non c'è più, i suoi familiari hanno deciso di portare avanti la sua battaglia, dando vita a un'associazione per la prevenzione e la cura dei tumori mammari. Nelle pagine del suo diario, che ora la Mondadori ha raccolto nel libro Toglietemi tutto, ma non il sorriso, la speranza si alterna alla paura e alla rabbia. Ma non mancano neppure i momenti in cui Annalisa vuole condividere la sua gioia, come quando, nel giorno di Ferragosto, racconta del suo matrimonio con Andrea, organizzato in tutta fretta, dato che i medici le avevano dato pochi mesi di vita. Oggi pomeriggio, alle ore 17, nella chiesa all'interno dell'ospedale di Livorno, qualcuno e Anna staccato Lisa si uniranno in matrimonio. Sì, gente mia, mi sposo! Non è uno scherzo, mi sposo veramente. Giovedì 10 agosto per San Lorenzo qualcuno mi ha detto: Anna, ma perché non ci sposiamo per Ferragosto? E io: come? Qualcuno: sì, è la festa della Madonna, è il compleanno di tuo fratello Alessandro ed è festa rossa come volevi te. E quindi sarà festa ogni anno, per sempre. Mi sembrano tre buoni motivi, no? Che ne dici? E io ho riflettuto. Ho pianto, ho avuto l'ennesima riconferma di essere una persona fortunata perché qualcuno mi ama fortemente, sinceramente e totalmente. Sulla carrozzina a rotelle che mi porterà fino all'ingresso della chiesa è stato messo un fiocco bianco e la bombola dell'ossigeno è stata agghindata da Claudia e Cinzia, personale delle cure palliative, con carta, fiocchi e fiori bianchi. È bellissima e irriconoscibile. Ho festeggiato l'addio al nubilato con pizza, torta e spumante, con la mami e le mie amiche, qui, nella mia camera d'ospedale. Mi hanno riempito di regali, di coccole e di amore. Sono meravigliose. Altro da dire? No, per il momento no. Non sono agitata, sono felice, orgogliosa, divertita, fiera, entusiasta, innamorata. E adesso vado a nanna. Pensatemi. Avete ascoltato la lettura di alcuni passaggi dal libro di Annalisa Russo, pubblicati sulla stampa del 17 aprile.